E sono le ore 21 in questo momento, oggi 25 ottobre del 2023, inizia prove tecniche di trasmissione. Spazio esistente ormai da lontano 1992, che si occupa di industrial ambient noise e di sperimentazione in genere con elettrodo alla voce e ai controlli. www.ondarossa.info è per l'appunto il sito che si può sfruttare per sentirci via web e per leggere le notizie presenti e anche per aderire alla sottoscrizione per questa radio con le varie modalità. Allora, prima di iniziare le nostre selezioni musicali, i consueti saluti ai vari affezionati di questo spazio. Maia in Umbria, il buon Gianluca Becuzzi, Anna qui a Roma, Venusia Zozzetta Stramonio, di Alfa Privativa e Cuppio Dissolvi, Cristiano Bocci, P. Greco con Tiziano Zeno Farinacci, Doriana Panico a Taranto, Pindar con Cecilia Miradoli, Ernesto Panico Brusati di Panico de Palcoscenico. A Cortina d'Ampezzo c'è Tabula Rasa. Altro musicista, Lucia Cagliazza di Lupsi. E salutiamo Marco Milanesio, Massimo Pasqualetti, Barbara Caridi, Antonio Zoviet di Omicidio, affezionato anche lui. All'ascolto abbiamo anche Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo. Benvenuti a Wurnus Island, storico industrial piemontese, Francesco Cornello a Bergamo. Un'istituzione dell'ambient più oscura che si chiama Like a Wick, Stefano Di Serio. E allora andiamo ad iniziare immediatamente con l'andare a riproporre un paio di passaggi da questa Deep Red, ossia Profondo Rosso, e Tribute to the Cinema of Dario Argento. Gli intendimenti sono chiari e dietro questa operazione ovviamente c'è Raffaele Pezzella attraverso la sua 8 Tower Records. I due musicisti, uno l'abbiamo già ascoltato recentemente, Michael Bonaventure, che firma ben 3 tracce in questo album, e ce l'ascolteremo con The Tunnel e poi 400 Lonely Things con I Was a Monster. Anche per questa sera ci sta tenendo, ci ha tenuto compagnia questa Deep Red, a tribute to the cinema of Dario Argento, regista che affolla l'immaginario di molti di noi, e questa compilation dedicata a lui, ai suoi film, alla sua arte, vede protagonisti questa sera Michael Bonaventure e un artista invece a me meno noto personalmente, 400 Lonely Things, un connubio particolare tra kraut rock, prog e naturalmente piglio avanguardistico, che lo ha accomunato sia Michael Bonaventure e tutti gli altri artisti che affollano questa compilation: Joel Giulardini, il nostro Gianluca Becuzzi, Mario Lino Stancati, Dario Righi, Cristiano Bocci, Sara Capo Fontana, eccetera eccetera. Esposto la tesi di Venusia Zozzetta Stramogno, che anche come colonna sonora dello Zappatore di Mario Mero, che sappiamo grossa passione per Venusia Stramogno, potrebbe essere una colonna sonora adatta anziché il classico neomelodico. Primo artista italiano in lista è Marco Mascia, che saluto con il suo progetto sonoro Lapsus Memoriae, un disco dell'agosto di quest'anno, tre tracce di cui due molto lunghe, e la seconda si chiama Time Ago, ricordi smarriti. Noi ce ne ascolteremo una parte, rimaniamo su atmosfere altamente visionarie e a loro modo contemplative. Era dunque la prima parte di Time Ago, ricordi smarriti, bellissimo il titolo, al pari per esempio del Cancello della Memoria, che fu di Battiato se non erro, e tutto ciò che concerne la complessità della psiche è un argomento che interessa il sottoscritto ed è spesso presente nella musica, nell'arte che proponiamo in questo spazio. In questa circostanza era progetto sonoro da Lapsus Memoriae. E la prossima settimana ce ne ascolteremo la seconda metà insieme a Trying to Remember, sul filo aggrovigliato della memoria. Bello anche questo. Un saluto a Marco Mascia, artista sardo. Corredo dunque di ambient oscuro, cupo, in sospensione, che è così oscuro e onirico allo stesso tempo. Dunque salutiamo di nuovo Marco Mascia, che è all'ascolto, e ci trasferiamo nella New York più malata artisticamente parlando, la Grande Mela cosiddetta, ha partorito tanti musicisti in gambissima, per esempio gli Swans, che tutti noi apprezziamo qui a Prove Tecniche, almeno credo. Naturalmente di Michael Gira, ed è uscito un album dal nome The Beggar, uno dei migliori del 2023 a mio modestissimo giudizio. Ricordiamo la carriera degli Swans, iniziata proprio 40 anni fa in ambiti più noise, che terminò sul finire degli anni 90 per ricominciare nel 2010. In questi anni Michael Gira si è dedicato soprattutto a Angels of Light, progetto più acustico. È tornato appunto nel 2010 con gli Swans, sempre dal profilo psichedelico noise. Parte ora Paradise Is Mine. Lie. touch for your breath, for your love to begin to unfurl, to create a new world in the gash, in the break, in this place you animate, come to us. Come to us, animate. Come to us from the mark. Learn to speak. Trained, fingers reach, come to us on the beach, awake, awake, awake. e l'intimismo malato psichedelico assolutamente riconoscibile tra mille, quello di Michael Gira e dei suoi Swans. The Beggar, ultima fatica, un doppio CD che contiene anche una traccia di ben 45 minuti che noi ci ascolteremo presto, ovviamente divisa in più parti. 40 anni di carriera, una intensità e una ispirazione sempre ben sveglia, nonostante i 15 anni di pausa tra la prima e la seconda fase degli Swans. Saluto a Margherita Montoneri. E sarà contenta, la salutiamo sulle note degli Swans. Saluto anche Simonetta. E noi si va avanti dal nostro Gianluca Becuzzi. Stacca una vista come non mai, quest'anno due album eccellenti. E abbiamo già parlato di We Can Be Everywhere nel dire appunto che la prima stesura fu del 2014 con l'aggiunta nel 2023 di un secondo CD che questa sera cominciamo ad ascoltare. Quindi dal secondo CD ci ascoltiamo la prima traccia dal nome We. e ce lo siamo ascoltato praticamente tutto. Il brano dura 14 minuti, questo We, ce ne siamo ascoltati quasi 12 per la gioia di Becuzzi, ma soprattutto della nostra, che tutti noi apprezziamo questo We Can Be Everywhere, compreso il secondo CD, 4 tracce, la prima We, la seconda Can, la terza B e la quarta Everywhere. Solennità doom, ormai le chitarre negli ultimi tempi la fanno da padrone dentro i lavori di Gianluca Becuzzi, che ha avuto anche l'abilità di campionare la Diamandona Galas. I gorgheggi quindi non sono di Becuzzi, come qualcuno magari sospettava, invece è stato abile anche nel campionare la Galas. Intanto saluto Giulia qui a Roma. Buonasera Nicola Locci di Stigmata e Hexagonal, fedelissimo. Un altro artista che ha avuto una prima e seconda fase di carriera caratterizzata da un cambio di suono e non solo, è sicuramente Gordon Sharp e i suoi Cindy Talk. Ricordiamo gli inizi quasi gotico-industriali della metà degli anni 80 fino alla fine dei 90, per poi ritornare nel 2010 nella nuova versione, diciamo più rarefatta e sperimentale, compreso questo Subterminal, lavoro dello scorso anno, che si apre con Sea Seer Sick.